riposo a te barca bermuda, moca stracquata, nuvolta scetata. Tu sei una barca tanto canciuta, chi stata amata, troppo, troppo amata, e mo chi passa sento te saluta. Tu suoni cose belle, ma è cose belle in suono, no male segno so, no male segno so. Non penso una come fedele ancora, non penso una castante che sospira. Lascia la stato sta, che non ce va, e cose belle in sonno, no male segno so. Non te scelta più barca dormuta, si doccio suonne di sonno passato, o non me che lampame che partuta, vicina barca non sta più pittato, l'ho dato mare l'urde mo è battuto, e s'ha portato in fondo, l'amore puro non me, se fa contenta a me, se fa contenta a me. Non penso una come fedele ancora, non penso una castante che sospira. Lascia la strada sta, che non ce va, e cose belle in sonno, no male segno so. Buon riposo a te, barca.